versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:35, primi 34 secondi, quindi diretta dagli studi di Milano. Vi ricordo l'indirizzo, versione di Oscar, @radio24.it. Andiamo subito al tema del giorno per farvi riflettere, se chiamare l'800 24 00 24. Ricordo che il numero invece per gli sms è 349 238 6666. Allora, partiremo dalle parole oggi pronunciate dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, perché c'è un annuncio, una considerazione intorno al fisco. Il tema oggi è il fisco d'impresa, perché sentiremo prima Renzi, ma poi vi spiegheremo, perché io sono convinto che molti di voi, giustamente, se sono lavoratori a reddito dipendente o magari disoccupati, ex reddito dipendente, autonomi o pensionati, e cioè sottoposti a un prelievo fiscale che è rigidamente progressivo, per cui ciascuno secondo la sua soglia di reddito sa qual è l'aliquota che pagherà, io sono convinto che voi pensiate, o molti di voi possano pensare, che la stessa cosa avviene per le imprese e per le persone giuridiche, e cioè che ci sia un sistema progressivo sul loro reddito, scandito da cose certe uguali per tutti, con il reddito si sa qual è l'aliquota che si applica, come per voi lavoratori dipendenti e pensionati. Certo, poi ciascuno potrà fare qualche gioco in più sulle detrazioni possibili consentite dall'attuale norma, ma c'è l'aliquota che è rigorosamente scandita dal progredire del reddito. E invece vi spiegheremo come funziona davvero, perché non è affatto così per le imprese, anzi praticamente ogni impresa, per come funziona l'ordinamento fiscale, ha una sua aliquota, e scoprirete quante pagano a oggi in Italia più del 100% del loro reddito, più del 100%. Sono convinto che molti di voi pensino che non sia così, e anzi che sia una butade. Allora, innanzitutto, se avete esperienza di questo e volete dire la vostra, sentito Renzi, chiamate. Ma in ogni caso iniziamo con quello che ha detto stamattina Renzi. È finito il tempo in cui chi si ritiene furbo possa pensare di avere la meglio, ma contemporaneamente noi dobbiamo far sì che per questo messaggio arrivi forte e chiaro al cuore della stragrande maggioranza degli italiani, che sono persone straordinariamente per bene, dobbiamo fare uno sforzo di semplicità. Allora, Renzi dice fisco semplice uguale zero furbi. E per carità, chi non mette la firma sotto questa dichiarazione? Io vi faccio riflettere su questo punto prima di presentarvi l'ospite. Se oggi andate sul sito del Sole 24 Ore, Norme Tributi, oppure se comprate e leggete il Sole 24 Ore stampato, Norme Tributi, che è il terzo fascicolo, troverete quello che sta avvenendo su uno dei tanti punti fiscali su cui il governo sta lavorando, che è in stridente contrasto con quello che dice il Presidente del Consiglio. Stiamo parlando del decreto attuativo della delega fiscale, il decreto attuativo che riguarda l'abuso di diritto. Sapete che l'abuso di diritto è una follia tutta italiana, perché non sta nel codice penale, ma si può essere perseguiti fiscalmente e penalmente per abuso di diritto, e l'abuso di diritto vale solo contro il contribuente, cioè non è lo Stato che si può macchiare di abuso di diritto, ma se il contribuente, in coerenza con le leggi dello Stato, in coerenza, non violandole, capite, ha una doppia modalità di tassazione del proprio imponibile, delle quali, delle due alternative o più alternative, adotta quella per sé più vantaggiosa, ma ripeto, rispettando la legge, a quel punto lo Stato lo può perseguire anche penalmente per abuso di diritto. Questo tema nella delega fiscale si diceva che andava cambiato. Oggi, sulle 24 ore, vi pubblica lo schema di decreto attuativo sull'abuso di diritto, e questo stesso Stato che vi ci carica di tasse retroattive, anche questo governo, nella legge di stabilità lo fa sulla tassazione retroattiva, per esempio, del risparmio previdenziale, eccetera, eccetera, quando si tratta di fare il nuovo decreto attuativo per l'abuso di diritto più favorevole al contribuente, ecco, in questo caso, trovate sul Sole di oggi, la retroattività a favore del contribuente non vale, vale solo contro. Tanto è vero che anche nel nuovo decreto di riforma più favorevole al contribuente dell'abuso di diritto, lo Stato si mette per scritto la salvaguardia che tutte le indagini penali e fiscali precedenti restano in vigore, anche se a quel punto non è più reato. Voi capite la simmetria di uno Stato simile? È questo lo Stato con il fisco semplice di cui ha parlato il Presidente del Consiglio? Io credo di no. Ma andiamo all'ospite. Oggi trovate su Panorama, se volete anche avere i numeri precisi oltre che ascoltarli, alcune pagine dedicate all'ospite che vi presento. È un imprenditore, che produce trattori. La sua azienda si chiama BCS, è una società che ha più di 100 milioni di fatturato, 700 dipendenti, quindi non è proprio un'aziendina. E questo imprenditore ha le prese con il fisco nella sua impresa, si è incaponito e ha fatto uno studio comparato tra la tassazione in Italia e negli altri paesi, e soprattutto uno studio per capire bene davvero quante tasse sul reddito pagano le imprese e in che percentuale. Ve lo presento, e con noi si chiama Fabrizio Castoldi. Buon pomeriggio, ingegnere, grazie di essere qui. Grazie anche a voi, buon pomeriggio. Allora, ci può spiegare un pochino innanzitutto da dove nasce questa indagine che ha compiuto, poi come si è rafforzata e a che conclusione è arrivata? Le do un po' di minuti, spieghi. Guardi, nasce da un gruppo di lavoro che abbiamo istituito in Asso Lombarda per rispondere alla domanda che cosa sarà dell'industria meccanica manifatturiera italiana nel momento dell'impatto con la concorrenza cinese che è in arrivo. In sostanza abbiamo cercato di capire che cosa è successo negli anni 60-70 con l'invasione delle motociclette giapponesi che hanno distrutto le industrie italiane del tempo. Ne sono rimaste in piedi solo 2 su 50, va bene, cercare di capire, perché oggi fra poco avremo l'impatto cinese che sarà ancora più devastante di quello giapponese, e cercare di capire perché negli anni 60 non siamo stati capaci di arginare questa offensiva. Quindi non vogliamo ripetere gli errori del passato, se possibile. Lo studio è partito da questo. Premetto che la situazione cinese, la meccanica cinese è molto più indietro della meccanica italiana, noi siamo più avanti rispetto ad altri settori, però la Cina sta progredendo a una velocità superiore della nostra. Allora abbiamo iniziato questo studio incominciando a vedere se lo Stato cinese fa qualche cosa e cosa fa per spingere le proprie industrie a svilupparsi tecnologicamente. Siamo andati in Cina e abbiamo studiato il sistema di tassazione locale, che ve lo dico in poche parole, è un 25% su tutte le aziende, tranne sulle meccaniche che fanno high tech. Per questo c'è una riduzione al 15%, a patto che la impresa cinese, che può anche essere straniera, ma in Cina, va bene, dimostri di investire il 30% dei propri utili, cioè 3 volte il risparmio che gli dà lo Stato, in ricerca e sviluppo, certo, nel settore della meccanica. Quindi sanno perfettamente i cinesi che sono più indietro di noi e ci vogliono raggiungere. A questo punto veniamo in Italia e vediamo noi come siamo messi. La prima cosa che abbiamo fatto è fare il punto sulla pressione fiscale in Italia oggi. Ci siamo informati, non è stato possibile ricavare niente, nessuno sapeva darci un'informazione. Quella più precisa era: non è possibile sapere oggi cosa si paga in Italia, perché le tasse, la tassazione varia da un'azienda all'altra, da una regione all'altra, da un comune all'altro, è impossibile. Allora abbiamo esaminato un campione di una decina di aziende meccaniche e manifatturiere omogenee dell'Italia del Nord su un arco di 3 anni circa, dal 2010-11-12, se non ricordo male, e abbiamo scoperto con una certa sorpresa che la pressione fiscale media di queste aziende qui era esattamente del 72%. 72% il risultato ante imposte, cioè il reddito commerciale, quello che si può paragonare a un reddito di una persona che non è. Sì, esatto, ma attenzione, solamente non è tutto, perché sì, era solamente IRES più IRAP. Va bene, voi sapete che le tasse in Italia sono tre tipi diversi. IRES, che dovrebbe essere imposta sul reddito dell'impresa, ma che in realtà è molto di più. L'IRAP, che è la imposta su tutta una serie di addendi, perché è un'imposta prevalentemente sul costo del lavoro. È un'imposta sul costo del lavoro e che tassa anche gli interessi passivi. Cioè sì, c'è il costo del lavoro, c'è dentro il margine operativo lordo, c'è dentro il costo del denaro, cioè gli interessi passivi, e c'è dentro anche l'IMU, esatto, che è un'altra tassa. Quindi si paga una tassa sulla tassa. Va bene. E poi abbiamo E poi per finire abbiamo l'ICI, una volta era ICI, oggi è l'IMU. L'IMU corrisponde a una ICI praticamente raddoppiata circa, è circa il doppio, raddoppiata da un anno con l'altro. Quindi stavo dicendo, abbiamo scoperto questa situazione, abbiamo visto che c'era su questo campione il 72%, ma dicevo, attenzione, senza ICI, la quale ICI all'epoca, parlo di 3-4 anni fa, si aggirava intorno all'8-10% mediamente sul campione, quindi arriviamo già all'80%. Vabbè, e siamo nel 2011, poi sappiamo che 2012, 2013 e 2014 le tasse sono solo aumentate, perché l'ICI è passata all'IMU, va bene, che è aumentata la percentuale, sono aumentati l'imponibile sui, sapete che l'IMU è la tassa comunale e statale sui mobili e terreni industriali, che può variare dallo 0,46% a 1,06% sul valore catastale degli immobili. Ecco, i valori catastali sono raddoppiati o triplicati. Quindi, in definitiva, l'IMU è una tassa che equivale a circa il doppio dell'ICI e sembra che stia aumentando ancora. No, soprattutto aumenterà ulteriormente con la local tax l'anno prossimo, ci dicono ANCI e governo che stanno trattando l'unificazione degli imposti. Ora, questo 70% da cui erano escluse queste le tassazioni immobiliari sugli immobili strumentali di impresa, naturalmente è una media. La cosa poi ancora più incredibile è che questa media non solo possa arrivare al 100%, ma per un bel po', non pochissime imprese, può superare anche il 100% del risultato ante imposte dell'anno, vero? Penso dallo studio fatto subito dopo dalla Assolombarda e Prometeia, che è stato fatto su un campione di 5.980 aziende. Quindi lombarde. Un campione molto ampio, molto rappresentativo. Un campione veramente molto molto ampio, sui bilanci di 5 anni, andiamo dal 2007 al 2011, quindi prima degli aggravi ultimi, e qui viene fuori una situazione, io direi, paradossale, allucinante, non so che termine. In sostanza, noi poi abbiamo ricalcolato tutti questi valori medi in modo da separare le due medie, perché la media generale che viene fuori era del 52% è più bassa. No, attenzione, sempre senza IMU, eccetera. Però dire una media è fuorviante, perché è come se lei mi dicesse che gli italiani stanno benissimo, mangiano tutti un pollo a testa, poi in realtà la metà ne mangia due, l'altra metà fa la fame e muore. Quindi abbiamo voluto andare al di sotto per vedere chi pagava quanto. Sì, per ricavare almeno le due medie. Sì. Va bene. Allora, abbiamo scoperto che una metà circa delle imprese italiane hanno una pressione fiscale media intorno al 35%. Sì. L'altra metà delle aziende italiane hanno una pressione fiscale media che è intorno all'85%. In questo 85%, che è un valore medio, ovviamente ci sono quelle che sono al 70% e quelle che sono al 130 o 150%. Allora, adesso noi abbiamo 60 secondi di informazione stradale, dopodiché spieghiamo a chi ascolta come sia possibile e chi sono quelli che pagano 35%, che è una percentuale insomma a cui ci si può stare, e chi sono i tantissimi altri che pagano l'80% o anche più del 100% del risultato per anno. Che significa? Che pagate le tasse, l'azienda si impoverisce, capite? Va indietro, ecco perché poi si chiude, anche per questo, non solo per la bassa domanda e per la bassa competitività, ma lo Stato, capite che se ti prende più del 100% e fino al 150% del tuo risultato ante imposte, è come dire, caro mio, ti sto stringendo la garrota intorno al collo. Spieghiamolo, perché a chi sta a casa non è affatto detto che lo sappia. Strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, stiamo parlando, dopo aver ascoltato Renzi che ci ha detto stamattina fisco semplice uguale niente furbi, stiamo proponendovi i risultati di ricerche fatte da un imprenditore milanese, fabbrica di trattori, 700 dipendenti, più di 100 milioni di fatturati, Fabrizio Castoldi, che è con noi, ingegnere, e che vi ha spiegato come in realtà nel ramo delle imprese, con un campione molto ampio, quasi 5.800 imprese, di un'analisi fatta da Promete, la metà quasi la metà, siano il 35% rispetto al risultato ante imposte di tasse pagate, uno ci può stare, altro che se ci può stare, ma poi c'è un'altra metà che va intorno all'80% e addirittura con punte di un 10% di imprese che vanno oltre il 100%, oltre il 100%. Com'è possibile? Io lo sapevo che arrivavano sms che dicevano, com'è possibile? Cosa ci stai raccontando? Cari ascoltatori, a seconda di quanta finanza c'è nell'impresa, primo, a seconda di quanto è lunga la tua catena di controllo, se la tua catena di controllo sta all'estero, a seconda di quanto orizzontalmente è ampia la tua, il tuo gruppo con più società collegate, e cioè significa che entro fine anno, prima di chiudere il bilancio, puoi comprare e vendere tra società del tuo stesso gruppo, modificando quindi i prezzi, asset, tra società del tuo gruppo e quindi aumentando il credito d'imposta, per queste tre cose qua, finanza, lunghezza della catena e estensione delle società, tutte queste cose fanno abbassare l'imponibile e l'aliquota reale. Voi capite che le imprese invece concentrate solo in Italia, piccole o medie, quindi non con gruppi sterminati che non possono arbitraggiare i prezzi e i valori degli asset per andare in credito fiscale, quanto più hanno immobilizzi fisici e dipendenti in Italia, tanto più è elevata l'aliquota che pagano, fino ad arrivare al 100%. La cosa pazzesca è un sistema fiscale costruito per penalizzare chi ha più capannoni, chi ha più dipendenti, chi non ha le catene di controllo all'estero e chi non arbitraggia fiscalmente, per andare in credito fiscale, i valori a libro all'interno delle proprie società di uno stesso gruppo. Cioè è un fisco nemico dell'impresa, vogliamo dire sana? Io non ce l'ho con i grandi gruppi, ma è un fisco totalmente regressivo, cioè quanto più grande finanziarizzata l'impresa, tanto meno paga di aliquota, quanto invece più non lo è, cioè quanto più è nelle costruzioni, nella meccanica, con i capannoni dipendenti in Italia, ne paga di più. Ecco, questo funziona così il fisco d'impresa nel nostro paese. Ci dicono alcuni ascoltatori a questo punto, criticate, ma qual è la proposta? Ecco, Inger Castoldi ce n'ha una, perché ha anche elaborato quanti sono i costi e i ricavi per lo Stato, oltre che per la sua impresa. Che proposta alternativa a questo fisco pazzottico così regressivo sull'impresa, antimpresa, antilavoro? Scusi, vorrei prima precisare che questo è un fisco antimpresa, ma non solo, è un fisco antilavoratore. Certo. Perché la discriminante sull'incremento della tassazione, mentre sul reddito delle persone fisiche, diciamo, è il più guadagni più paghi, certo, ma a scaglioni, aumenta, certo, aumentato lo scaglione, qua invece la discriminante è le tasse aumentano all'aumentare dei posti di lavoro. Certo. Questa è la cosa allucinante. Quindi più io assumo gente, più pago. Più io delocalizzo la mia produzione all'estero, meno pago. Sì, sì. Quindi se in teoria, per assurdo, noi dovessimo portare la nostra produzione tutta all'estero, noi scenderemmo dal nostro 85% a 35%. E lei ci guadagnerebbe come imprenditore un pacco di quattrini, anche per sé come socio controllante, ovviamente. Però. Sì, ma non è tanto questo. Onore al merito che lei non lo fa, perché sarebbe possibile. Il problema gravissimo è che le imprese devono, il nostro tipo di imprese, le imprese manifatturiere e meccaniche, devono continuamente investire in ricerca e sviluppo. Questa è l'unica possibilità che noi abbiamo per sottrarci alla eccessiva concorrenza dei paesi nostri, che stanno diventando nostri concorrenti, dei paesi in fase di sviluppo che hanno costi del lavoro molto più bassi dei nostri. Noi riusciamo a stare avanti solo grazie a una... Allora, guardi, Ingegnere, io la prenoto per un'altra puntata nella quale spieghiamo agli ascoltatori come equalmente soluzione con un'aliquota del 30% ad alcune condizioni lo Stato ci guadagnerebbe, l'impresa ci guadagnerebbe e il lavoro ci guadagnerebbe, perché noi dobbiamo dare anche l'idea che abbiamo le proposte costruttive per farlo. Siccome il tempo di oggi, ma lo sapevo, non bastava, la proposta di un 30%, conti alla mano, per vedere che lo Stato non ci perde, quindi non vogliamo far buchi ma vogliamo crescere di lavoro e impresa, si può fare. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani. La versione di Oscar.